no, ma erano, vabbè, quelle che più o meno ho visto io di macchine, sono tutti dei grossi fuoristrada, e una station wagon grossa, c'hanno una, mi sembra che sia una Chevrolet se non sbaglio, boh, non mi ricordo, una americana con le tavole da surf sopra, poi c'hanno quei pick up grossi, quella con due antenne, un paio ne ho visto. Ok, e basta, facciamo riprendere a Giovanna, dai. Mi sarebbe piacere, come ti sono tornati, che io avrei sentito, c'è un cliente che sta prendendo, che dice, scrivalo da antenne, chiaro che riesco a prenderla. Sì, è meglio, dai, così non ci sono problemi, dai, perché non mi piace poi parlare io, gli altri non ascoltano, è bello quando tutti ci ascoltiamo, possiamo controbattere, eccetera. Ok, io per me si è fatto tardi, e anche se domani non lavoro, però ci sono troppo attaccato a questo baracchino, dai, ha necessità di riposare un po' la corda vocale. Vi saluto a tutti, dai, è stato sempre un piacere ascoltarvi, discutere e raccontare. Ciao Giovanna, ciao Riccardo, ciao Franco, ciao Antonello e ciao Marco, eventuali amici qua in ascolto sul canale 10 QRT da parte mia. Ciao ciao. Ciao Roberto, buonanotte. Ciao Roberto, buonanotte. Beh Marco, di cosa l'hai? Marco. Aspetta che stanno parlando. Ehi, Riccardo ha salutato, dimmi Giovanni, dimmi tutto. Beh, di cosa l'hai? No, alla fine tra andare a bere in bagno qua là sono ancora in pigiama e pantofole. Ma metti in pantofole e pigiama, che si vede? Ma io ho un'immagine da difendere. Marco, io ci scendo anche in pigiama e da bucette gialle col bacino, immaginati tu. No, ma c'è la ciabatta con le piume, c'è vergogna. Il mio fisico. C'ho anche quella specie di foulard di piume di struzzo. Mettiti anche i pantaloni e puoi scendere. Oppure nudo, nudo. Tanto non c'è nessuno in giro. Un 21 è un deserto. Ma che ti pensi si attacca alle vecchiette, occhio. Le vecchiette, mi si attacca qualche babbiona. Oh Marco. Dimmi fra. Mi ricordo, non fa anche 30 anni fa, se non fa anche di più, forse anche 40, in Sicilia mi ricordo, per non lasciare la mondezza per strada, perché ancora non c'era la raccolta differenziata, legavano il secchio, non so, quelli del terzo e quarto piano, lo buttavano giù e rimaneva bene o male a un metro e mezzo da terra, no? Passavano poi quelli tipi della mondezza, svuotavano il secchio e poi la mattina se lo portava su, capito? Che roba strana. Vabbè che noi prima dei cassonetti lasciavamo le buste così in un angolino in strada, poi i gatti e i cani aprivano tutto, si riempiva di mondezza in strada, anzi i cassonetti sono stata una bella cosa. Quella che non mi piace a me è questa raccolta porta a porta, perché i sacchetti li devi lasciare sempre fuori prima che li raccolgano, e se passano animali randaggi aprono tutto e punta a capo. E anche io giuro così, infatti a me non piace, preferisco qua, ma dicono che funziona meglio così. Poi sa cos'è, qua non abbiamo in questo condominio non abbiamo nemmeno il posto per i cassoni per tenere la differenziata. Per esempio a Milano ho visto condomini che dove avevano i cassoni proprio per ogni singolo vetro, plastica, carta, umido, eccetera, no? Poi sarà un'altra scusa Franco e Giovanna per fare multe. Per esempio mia zia di Olmedo, no? Per esempio una scatoletta di tonno l'ha sciacquata poco bene, no? Beh, quelli dalla busta semitrasparente o trasparente hanno visto che non era ben pulita la scatoletta di tonno, gli hanno lasciata lì la busta. E poi appunto sarà per fare multe a furia dura, capito? A chi non rispetta, a chi sbaglia anche di poco, la multe l'hanno. Come ho detto prima, è tutto incentrato su far soldi, battere cassa per il comune, e sarà sempre peggio, perché stanno andando e stringendo in tutti i campi, capito? Vai Giovanna. Giovanna, ci sei? Sì, ho finito. Vai fra. No, ho un po' di QRM da pompa di calore, a volte non lo sento. E così. Sì, Alghero ti scrivono non conforme, e non te la toccano, se ti beccano la multa, la mondezza che non è differenziata bene, un cartello sopra, una volta, due volte, e poi ti scatta il verbale. Figurati. perché io poi devo fare doppia fatica qui a differenziare, anche no, per la norma differenziata, perché mamma è un po' così, no? Non troppo, e quindi butta tutto dove capita, allora devo rimettere tutto a posto, separato, capito? Quindi proprio lavoro, dai. È così, anche mia moglie a volte un po', io mi cavolo che lei butta i cartoni nel latte, cosa col tappo di plastica tutto assieme, no, a volte non sciacqua la roba, io un po' mi incavolo, comunque, siamo diversi. Avanti Riccardo, se mi ascolti. Non c'è? No, non ha risposto, può darsi che vista l'ora anche lui abbia chiuso, e d'altronde mi, 11:05, vabbè dai. Aspetta ancora poco, ho troppo niente io al baracchino, o ci sono giorni interi che non entro, oppure giorni che rimango pure troppo. Io devo fare, capito, dipende da come ti senti, prima volta a cena, a volte faccio un po' di ascolto e non entro nemmeno, un po' di tutto, dai. Ah, poi, ti voglio dire una cosa, su YouTube, fanpage, ieri per fare sempre audience, ha pubblicato, ieri in TV, praticamente, la notizia che ieri in TV hanno dato, il film Contagion, che è un film fatto molto bene, molto realistico, senza giabiture di militari che distruggono la città, no? Guarda, sembra, è il miglior film su roba di virus, e sembra molto molto realistico, è come la situazione attuale, solo che lì ti prendeva più tipo encefalite anziché polmonite. E ho detto, e tutti hanno detto, ma sembra che ce lo stiamo facendo apposta, perché giorni, tempo prima, settimane prima era dato virus letale, adesso hanno dato conteggio, ma sembra che lo facciano a spot, non l'hanno dato in tanti anni, e proprio in periodo di pandemia mi fai guardare questi film, così chi ha paura ha ancora più paura, poi in realtà io ho paura nulla a me. Ho visto invece persone anziane soprattutto che come incrociano qualcuno proprio si allontanano, lo schivano, fanno il giro del marciapiede, certe volte viene voglia di dire, signora, ma lei c'è una certa età, quanto crede di campare ancora? Io no, per me uscire anche senza mascherina, quello che mi dispiacerebbe è contagiare mamma o andarmene e lasciare mamma sola, per adesso non mi ha fatto nulla. E tu conta che sono quasi 2 mesi che non scendo in campagna, adesso mi il 4 compilerò il modulo e ci andremo a trovarli, ma sempre senza contatti stretti, giusto per vederti almeno, fare qualcosa in campagna, aiutare mio padre nei lavori, dai. Sì, ancora è troppo. Per esempio, non sono andato nemmeno da Osciana a comprare la cartuccia d'inchiostro Epson, perché se trovo il tipo che non riporta sufficiente l'andata rischi la multa, che poi io potrei dire, se cosa li potrei dire, guardi, io intestato non ho niente, non ho nulla di intestato, fatemi la multa, fatemene 10, tanto soldi da me non ne vedete e non ne vedrete mai. No, dico, mi serve per stampare i moduli, per uscire, per andare alla spesa, insomma, tutto ciò che ne consiste. Sì, avrei potuto fare un po' di spesa anche, no, per dire. Per esempio, guarda, un video che risale ieri, in una cittadina di non so dove, un paesello di o nord o sud Italia, non mi ricordo, il sindaco, ordinanza di sindaco, qua si stanno moltiplicando le cose, un governo già ti dà dei limiti, la regione te ne dà altri, però visto che i sindaci di certi paesi si sono messi con tanto di comandante e di sindaco davanti al negozietto alimentari a perquisirti la spesa, controllare lo scontrino, e secondo il capo dello sindaco ha deciso che devi comprare minimo 8 pezzi differenti tra loro, capito? Ma se uno ha dimenticato solo il pane o la carne, e c'è, non va bene, è sanzionabile, capito? È andato il giornalista a fare un po' la ripresa, a salutare il sindaco, il comandante dei vigili urbani, era un po' a spotto il video, no, contro di loro, però poi in base a cosa? 8 pezzi, perché non 7 o 9 o di più o di meno? Cioè, e lì, come uscivi dal coso, buongiorno, coso, ti aprivano la busta, se avevi comprato pannolini assorbenti per tua moglie, dovevano saperlo loro, a me questi sembrano abusi. So che nessuno dà un freno, il governo poi è il primo che... Ma non mi sembra una cosa corretta, per acquisirti la spesa, per se hai comprato poca roba, poi in base a cosa? Io potrei comprare anche 8 cose da 20 centesimi, cosa ne giugo? Non ti so fare 28 pacchi di fazzoletti, per dire, a 20 centesimi l'uno. Ecco, lì li avrei fregati, però poi si inventano che ne so, la spesa fatta non vale l'uscita. Cioè, a questo, quello che ti voglio esprimere, fra, che a questo punto possono inventarsi qualsiasi cosa e multare chiunque per qualsiasi cosa, con la scusa di questa emergenza. No, io per esempio sono abituato tutte le mattine alle 9 mi faccio un panino, quindi qua in via Sicilia c'è la CRAI, non è che ogni volta che ricevo un panino devo farmi la spesa, vado, mi faccio il panino e basta. Vabbè, qua da noi non sono arrivati a tanto, però io ho visto anche commesse della COPEC, di qua giù, riprendere delle anziane perché erano andate a comprare due cosette, magari sai, ti dimentichi, che ne so, l'olio e il latte, e le hanno riprese perché mi sono accorto che alcune commesse, se potessero, sarebbero delle aguzzine, se fossero vigilanze urbane farebbero, se si abusi che stanno facendo i colleghi. Poi parlano tra di loro, dice, questo ha fatto storie, dice, fa una volta che viene a, insomma, ha detto in italiano, per una volta che viene a comprare qualcosa, hanno il vizio di riprendere le persone, queste commesse. Una ha detto una volta, una cliente, le dice, ma sembra che vi stiamo facendo un favore quando veniamo a comprare qua. Certo, sono un po' linguacciute, capito? Ce ne sono acide, sì. Vediamo un po' se c'è. Alessio, ci sei? Io sono diventato un altro refere. Beh, riprenditela. Dove la fai la spesa tu? Sì, dallo spin vado io. Quello che c'è via Verona qualche volta, oppure questo che c'è qui vicino. Non è che... E poi salgo a piedi, capito? Mi piace più che assomiglia da lunedì, rifaccio una buona passeggiata salendo scendendo da qui allo spin via Verona a piedi. Poi lì a piedi salgo nuovo qua. Capito? Mi guardo tutti i cassonetti di lei, voglio vedere se c'è qualcosa di buono che l'ha buttato. Ce ne buttano roba buona, no? Caspita, prima ne buttavano, adesso buttavo più accidenti, bene è quella, ma prima la buttavano. Con la scusa che sai, non sapevamo cosa fare, capito? Andavano nelle cantine e dicevano proprio che era la roba, ma nulla, tutto finito. Poi chi è rimasto? Riccardo, ci sei? Ma Giovanna ha chiuso? No, ma Giovanna dovrebbe essere qui. Giovanna ci sei? Io sto ascoltando. Stiamo ascoltando adesso. Allora Giovanna, cosa stai facendo tu adesso? Ti stai rilassando, fumando stai? No, ancora no. Tu fumi Giovanna? Sì? No, credo di no. Credo di no. No, fumo anch'io. Vabbè, anch'io ho i miei vizi, a me piacciono i dolci molto, purtroppo, tutto male fai comunque, in questi tempi fa tutto male, quello che mangi, quello che respiri, quello che fumi, tutto, i vaccini pure fanno male, ma che fanno male, però non si può dire, addirittura sai cosa avevo visto? Un'intervista nascosta al medico, no, a un medico qualsiasi, un medico ha detto che... E gli ha detto in via confidenziale a questa persona che i vaccini hanno un tasso di pericolosità, cioè può far venire a bambini piccoli autismo o roba del genere, però loro ufficialmente non lo possono dire perché sennò perdono il posto, capito? Dice, io glielo dico in via confidenziale, non le posso certificare nulla perché questa persona gli ha chiesto una garanzia che non facesse male il o gli eventuali effetti collaterali dei vaccini, dice, non glielo posso fare, dice, non glielo posso nemmeno dire in via ufficiale che fa male, perché sennò perdo il posto, cioè stiamo arrivando a questi livelli. Altro che giuramento di cos'era? Perdonami, fra, aiutami, Ippocrate, quello dei medici. Cappa. Cioè, è una vergogna, il medico non può dirti nemmeno la verità, perché rischia il posto, che i vaccini sì, fanno bene a molti, ma hanno anche un'alta percentuale di effetti collaterali. io avevo visto un programma di una ragazza sui 35 anni che per un vaccino ha perso l'uso delle gambe e poteva camminare trascinandosi le gambe con le stampelle, una cosa incredibile. E poi ormai certe malattie, come ha detto qualcuno, un virologo, sono state debellate. Debellate vuol dire che il virus in Italia, anche in tutta Europa, non è più presente. E lui, allora, se è debellata, cosa continui a fare il vaccino decenni e decenni o secoli dopo? Va bene, vai giù, la ripeto. Allora, faccio una volta il vaccino influenzale, una volta faccio il vaccino influenzale, sono te che mi viene la febbre e la febbre. Non è venuto questo, non mi ha immunizzato quanto riguarda tutto il peggiore e il progresso, no. Ma dove la febbre? La fine non è stato più, dopo quella volta non è stato più. Sì, sai perché? Perché poi il virus influenzale muta, durante tutta la stagione muta, quindi anche se ti immunizzano contro un ceppo, ce ne sono altri due o tre per cui non sei immunizzato, infatti io non ne faccio mai. Premetto, io influenze poche ne ho prese, ben poche. Sono abbastanza refrattario, appunto per quello vaccino non ne voglio fare, a meno che non sia obbligatorio, perché può avere effetti collaterali. Poi che altro? Aspetta che mi sono perso, dove volevo arrivare però. Dunque l'ha fatto mamma perché è anziana, però anche lì ne ho lette certe, anche questa storia del vaccino anti-meningococco zona Bergamo-Brescia, no? Una marea di anziani hanno fatto il vaccino, sicuramente sono stati indeboliti dal vaccino, poi come è arrivato questo virus, sempre ripeto, ammesso che esista veramente, ma comunque esisterà, e quindi già indeboliti da quello, e il virus gli ha dato il colpo di grazia, perché già erano anziani, più quello un po' ti abbassa un po' le difese immunitarie. Insomma, in caso strano c'è stato un'ecatombe di questo coronavirus proprio in Nord Italia, lì da quelle parti. Vai giù qua. Allora, ti parlo di ottobre novembre, io ho visto la broncopneumonia, e ti dirò che ho proprio l'antibiotico, e l'antibiotico non faccio lo stesso. Le cose per una settimana, due settimane, tre settimane, è stato un mese, questa broncopneumonia mi è durata un mese e mezzo che sono andata veramente a lavorare, mi sono sentata più o meno due settimane stanca a casa perché non ce la facevo manco a respirare. Tutti i segnali del coronavirus c'erano. Beh, piano piano sono riuscita a riprendermi. Eia, è un po' delicata come... Poi vabbè, i vaccini se lo fanno obbligatorio, io quello che sapevo che non, comunque non, salvo casi di eccezionale emergenza, loro dicono che siamo in eccezionale emergenza, ma manco fosse Ebola, che non può essere sottoposto a misure sanitarie obbligatorie, cioè il vaccino non credo che si possano obbligare a farlo, vabbè che con questo governo credo che c'è ben poco di... Vabbè, dai, sto perdendo quota, Franco, vieni, il mio soccorso, dai, troppo devo chiudere che sono un po' stanco, e vai Franco. Anch'io non sto tanto. No, volevo dire che a quanto ho capito che chi non dovete fare questi vaccini, e poi potrebbe avere problemi, tipo a me che piace viaggiare per esempio, potrebbe avere problemi a espatriare, capito? È come l'applicazione. Questa applicazione Immuni dice non sarà volontaria, però cominceranno, allora se non la fai non puoi entrare qua, non puoi andare là, e allora è come che fosse obbligatoria, è come una finta democrazia, capito? Che schifo, guarda. Beh, comunque, poi questo Bill Gates, a me mi puzza parecchio questo Bill Gates che per anni ha fatto sistemi operativi cagati, scusate il termine, perché io su Windows ho sempre sputato sangue, adesso si è buttato nei vaccini e io ho fatto la battuta l'altra volta, speriamo che faccia i vaccini meglio di quanto ha fatto i sistemi operativi. Poi capo, ma non ricordo questa battuta. Dai, io vi lascio, vi auguro una buonanotte, ci sentiamo nel prossimo. Ciao Giovanna, ciao Alessio, ciao Riccardino se ci sei ancora, sono buonanotte. E ciao Marco, dai, riprendi Marco. Proprio c'è proprio un'altra. Birra. Buonasera, allora. Fai girare allora. bottiglia, stavo offrendo a bere io. La felpata, la lingua felpata. Ma sì, dai, una tiratezza. Va bene, Mandamela via WhatsApp la birra, Pino, ciao, Diciano Massimiliano. Io non sono viziato e quindi uso anche quella di Eurospin. Sì, tutto è buono, basta che insomma il prezzo sia popolare. Mi hanno insegnato al di sotto dell'euro, ma va bene. Ciao Franco, comunque dai, buona serata, buon tutto. E anche io devo lasciare che alla fine o non entro mai o entro troppo, troppe ore, un po' mi stanca e non sono abituato a parlare tanto. Dai, Giovanna, ci sentiamo le prossime. Riccardo si è in ascolto e tutti gli altri in ascolto, ci sentiamo. Poi domani, se vogliamo provare quel menù, ti dico tre voci, che poi non toccherai mai, lo so già. Vabbè, ma più che altro è curiosità, no? Perché è come avere, scusate per gli amici che ci sono a ruota, è come avere una macchina super accessorata e andare sempre in terza, per dire, ecco, giusto perché sai... non utilizzare tutti gli UPS, ma la sacchetta delle bibliotece per le varie, capito? Questa è una cosa un po' mia personale, giusto per vedere un pochino cosa ha all'interno, non sapendo, non avendo un manuale, un manuale d'uso, anche se lo scarichi non ti dice proprio cosa tutto si può fare, però beh, io ho visto poco e niente. Ma infatti a me sembra il colmo che vendano comunque baracchini importati anche dalla Prox e poi non ti dà anche l'Intec, che mi pare, aspettate, devo controllare se l'Intec ce l'ha in italiano, comunque molti, cioè anche la Prox li importa, mettimi un manuale tradotto anche a fotocopia, ma dammelo. Non tutti sanno l'inglese, il mio me lo sono programmato al computer, perché allora questo nasce per i 10 metri, no? Appena esci di fabbrica, no? Poi premi un tasto o più tasti, accendi e ti fa 26 065 28 305. Io invece al computer ho attaccato il cavetto, che è un cavetto particolare, e gli ho programmato 60 canali per banda, quindi il mio selettore canale arriva fino a 60 canali per banda, mi fa da 26,3, 26,305 ai 30,105. Va bene, quello non mi interessa, perché se vuole andare in altre mi posso spostare diversamente, questo lo lascio così per banda cittadina, chiamiamola così, e con l'altra magari vado più col vocio e viaggio. E comunque ti dirò, è buono come protezioni, perché se lui vede stazionarie pericolose, lui stacca istantaneamente la trasmissione, cioè ti appare, senti un bip, ti appare error o roba del genere, quindi non rischi nemmeno di bruciare l'apparato, per dire. Perché a me col 3009 certe volte, sai, c'erano temporali, staccavo l'antenna, poi accendevo, pigiavo e un secondo e mezzo, sai, il bip poi dura mezzo secondo, un secondo e mezzo di portante premuta, per fortuna non è successo mai niente, però secondo che apparato è parte subito. Quando lo programmi poi hai tanti parametri, tipo a quante stazionarie far intervenire la protezione, a quanti volt minimi farla entrare in protezione, a quanti volt massimi far entrare in protezione, tutta roba, io ho lasciato quelli in fabbrica, vanno tutti bene, anche per quanto riguarda la programmazione. Ok, va bene, di nuovo rinnovo i saluti, ciao, ti sentiamo Giovanna, bacione, buonanotte, buon tutto, alla prossima. Pomponio, lo stesso, un bacione anche a Pomponio. Sicuro. In fronte, dai, lo capo, non ci arrivi più, se va bene in fronte. Ehi, a Pomponio in fronte il bacione, dai. Sì, fanno un altro, aspetta, metto con le palle del coglione fisso, dopo già ci vediamo. Lunedì, verrà che ti faccio schiattare. Allora, no, vabbè, comunque Marco, quella lì è la protezione molto importante, quella mi interessa. Vabbè, se tu mi dici che va bene quella lì, standard, lasciamo i parametri così almeno evito magari, perché a me capita molto spesso, ho bruciato qualche 7-4 minuti. 5 minuti gioco tutta la sera. No, davvero, sono abbastanza cotto come orari, dai, devo chiudere. E poi devo cucinare qualcosina per la cena. L'ora consueta mia è questa. Giovanna, c'è ancora, dai, riprendi per i saluti e curiti per me. Ciao. Ciao, bello. Sì, ma bello proprio. Io avrei voluto avere l'aspetto di George Clooney o di Antonio Banderas, però non me l'hanno dato. Sì, completamente diverso. Antonio Banderas può veramente cagare. Aspetta, avete parlato in due. Giovanna, dimmi, ripeti. George Clooney e Antonio Banderas fanno veramente cagare. Davvero, non ti piacciono? Che ne so, fammi un esempio, una storia che ti piace, un esempio. A me ti piace il selvaggio, una cosa così. No, non ti ho copiata, Giovanna, non, la radio non è buona. Dimmelo di nuovo. Bruce Willis. Ah, Bruce Willis. Caspita, quello che piace a mamma. Bruce Willis, soprattutto quando era giovane, che aveva ancora un po' di capelli, no? Non molti, ma un po'. Poi c'ha questi occhi un po' tristi, hai visto com'è Bruce Willis? Sì, a mamma piace molto, via. È questione dei gusti. Dei gustibus non disputandum. Ma guarda, che senza capelli sta benissimo. E anche se Giova adesso, che sa quanti anni avrà, 60 suonati, diciamo che è troppo glabro, cioè i capelli posso, ma mi pare non ha nemmeno più sopracciglia, è proprio glabro. Se ti faccio un altro esempio, almeno quando era giovane, adesso è vecchiastro, come si chiama quello? Mel Gibson. Magari più giovane se la sono un carro, oppure gladiatore muoio. Ah, l'attore del gladiatore. Mi sfugge il nome, Tino, l'attore del gladiatore. Sì, ho capito, anche a me mi sfugge. Però ho capito, no, non sono meglio io, ma chi se ne frega? Non ti conosco, non saprei, poi sui maschietti non so giudicare. Eia, vabbè, comunque no, George Clooney mi sarei piaciuto come George Clooney, ma anche come Antonio Banderas. Poi altri non te lo so dire, non saprei. E Johnny Depp come lo trovi, Giovanni? Simpatico. Però simpatico, non hai detto bello, eh? No, simpatico. Cioè io non so guardare l'aspetto fisico di una persona, guardo quello che ha interno. Questo è un bel. Questo ti fa onore, eh? È differente dall'aspetto fisico, deve essere figa, avere 10.000 muscolature, quella che vuoi. Però deve avere il carattere. Il carattere che ha dentro, proprio, quello che scrive fuori. Eia, sì, vabbè, io diciamo io avrei cercato in una donna un buon carattere, perché quello che ho avuto io erano almeno due, diciamo, fai il 50%, erano delle stronze merite, diciamo, non subito ma l'hanno rivelato dopo in seguito. E poi a me, mi giovane, come ti avevo detto l'altra volta, a me le donne hanno portato sempre casini, bisticci, eccetera, eccetera. Sì, no, vogliamo parlare di due uomini, altrettante. Eia, purtroppo bisogna trovare quello giusto o quella giusta, perché poi adesso, sai, questi ce ne sento troppe, per esempio tutta gente di scuola, no? Compagni degli anni 90, primi anni 90, che tutti a 18 anni, 20 anni avevano idee chiarissime, non si sbaglia, tutti separati male poi, separati a coltellate proprio, purtroppo io non volevo responsabilità, mi detta terra a terra. Purtroppo le ragazze che avevano, vabbè, parlo in gioventù, si volevano tutte sposare, io come sentivo così mi si gelava il sangue giù qua, non so se mi spiego, io la libertà è la prima cosa, per cui, mamma mia, no, meglio non pensarci. Ma guarda, che tornando indietro io nel tempo non mi fidanzerei con nessuno. Non l'ho copiata di radio, ripeti giù qua. Tornando dietro nel tempo, non mi sarei messa con nessuno, cioè proprio single, tranquilla, della tranquilla, poi mi sei parata, perché è stata la famiglia. Poi io detto tra noi, io non ho mai avuto troppo amore per la famiglia, i figli, sempre preoccupazioni, responsabilità, spese, vabbè spese no, più che altro preoccupazione e responsabilità. E quindi basta, io ho fatto la mia scelta, però poi vabbè, uno dice ti trovi solo, da vecchio ti trovi solo, ma come diceva Alberto Sordi, dice che me lo fa fare a me a mettermi un'estranea in casa, capito? La moglie l'ha considerata come un'estranea messa in casa. Vabbè, dai, diciamo che relativamente da soli non è bello, non è bello, cioè con una certa età poi arrivi al punto di dire però se fossi stato con una persona in cui io ci sto bene, so quanto sarebbe stata meglio la cosa, anche perché poi si invecchia e arrivare da soli non è tanto bello secondo me. E poi giustamente io ribadisco sempre i gusti, i colori non si discutono, anche le scelte di chi le fa, capito Marco? Sì. E poi dipende, sai cos'è, molti purtroppo matrimoni, alcuni finiscono, come ho già detto, conoscenti di scuola, ma anche i figli, a seconda del figlio magari puoi educare bene, però a seconda di che caratterino ha, per esempio più di un'amica di mamma, c'hanno i figli che le prendono a pesci in faccia, cioè non le considerano proprio, non le vanno a trovare a Natale, proprio abbandonate, anche sono donne che hanno perso il marito che è morto per via dell'età, no? E questi figli non gli danno nessun supporto, né psicologico, né economico, niente, proprio a pesce in faccia. Eppure non lo so da cosa dipenda, tu lo puoi educare anche bene, a seconda di che caratterino viene fuori dei figli, altro che bastone della vecchiaia, il bastone te lo danno sulla schiena, insomma Maria. Vabbè, quello sì, giustamente io faccio, tornando indietro, un rapporto di come sono stato educato io, sto cercando giustamente di dare la mia educazione ai miei figli, però un discorso un po' così, perché io nei miei, quando avevo i primi 16 anni, ecco, ho notato tante cose giuste e sbagliate, molte, raccontate agli altri però, nel senso che le ho vissute, però mi chiedevo ma perché si sta comportando così questo qua, quando invece potrebbe essere meglio, ma è un mio carattere, quindi cercavo di dare anche buoni consigli agli altri e dire no, non fare cazzo che ti metti nei casini, cioè poi uno ci nasce giustamente, ci nasce poi, vede, oppure se si fa portare molto dalle amicizie. Io ho vissuto in ambienti, credimi, non tanto colorati, ecco, per dirti il termine specifico, capito? Quindi ne sono entrato, ma non ci sono stato lì a guardare gli spigoli, ho guardato un po' tutto e ho detto cazzo, qua mi va bene. Se uno vuole fare, ho avuto anche scusa se mi prolungo un pochino, ho avuto anche un'amicizia con un fratello, e Antonello già l'ha conosciuto, nonostante tutto parlava anche a radio con noi, che si è rovinato con le proprie mani, e io cercavo di dire non ci andare, non lo fare, guarda che mettevo i puntini su lì, invece lui ha scelto la sua strada, automaticamente io mi sono spostato da lui perché non era una cosa che mi interessava e guardavo oltre di quello che lui vedeva, capito Marco? Quindi insomma uno deve avere anche un pochino di carattere e dire no, quello è sbagliato, quello è giusto, punto e basta, questo è un mio parere, sempre. È un discorso ampio, lì ci sono troppe variabili con tutte le situazioni, dai. Allora, avete parlato assieme, Giovanna ha fatto un passaggio breve, Giovanna ripeti cosa vi ho detto, che appunto non ti ho sentito. Dipende con che sia, come educhi i figli, rispetto a quella volta nella vita, quello tantissimo. Sì, fai da ponte, non riesco a capire bene l'audio, non ho capito se dipende da me. No, anche io, vabbè, a giorno sento proprio leggera, Giovanna, ho veramente un pochino un po' timbrica, perché riesco a ascoltarti leggera. Allora, adesso come dipende tutto da come educhi i tuoi figli da piccoli. Io i miei, per esempio, ho iniziato con essere autonomi, essere autonomi nella vita, nelle cose di comuni che fanno tutti i giorni, una cosa e l'altra, però gli ho messo anche a contatto con mia mamma e il resto della famiglia, quindi sanno cos'è il sacrificio, sanno cos'è l'amore e conoscono le varie fasi. Ehi, adesso ti ho capito. Sì, l'educazione, soprattutto da piccoli, può influire. Quello che preoccupa quando cominciano a entrare nella fase adolescenziale, le amicizie. Perché a seconda di che amicizia frequenta, che magari non te ne accorgi, mamma mia. E poi hai visto cosa succede, certi ragazzini fanno cose indicibili che io non mi sognavo nemmeno lontanamente, e lo stesso Antonello, Nettino, hanno cose allucinanti, reati. E poi pubblicano tutto, riprendono i telefonini e si autodenunciano. C'è il colmo, proprio anche nemmeno intelligenti per dire, vabbè. È troppe variabili anche nell'educazione dei figli, poi. Che dire. Signori, comunque io sono veramente alla frutta, sono veramente stanco, dai, vi devo lasciare. Quindi dai, Giova, ci sentiamo alle prossime, mi ha fatto piacere che ci hanno trattenuto un po' di più per passare il tempo, tanto in TV è solo spazzatura. È una cosa allucinante la TV. Hanno ragione a scrivere sui muri TV lobotomia, perché certi programmi sono veramente da lobotomia. Tino, ci sentiamo lo stesso, poi se non è domani è dopodomani per quel menù. Ma è una cosa, guarda, i parametri credo che il 90%, se non tutti, li dovrei lasciare così come sono, come ho fatto io, ok? Ciao a tutti, vai prima Giovanna per i saluti, ciao, quelli per me. Non so se Franco è andato via, Franci sì. Franco sì, credo che abbia chiuso prima, da un po'. Vabbè, non abbiamo neanche salutato, vabbè, ci scuseremo. Ciao Marconi, dai, ci sentiamo. No, vabbè, se mi crescono così è una cosa, era giusto per buttare giù due righe, no? Per dire quello serve a quello serve a quell'altro. Ma è tale che un domani, se dovessi giocare un po', sono solo per tornarlo a sbloccare, capito? Va bene, ti ringrazio per il momento. Ti saluto Marco, rilancio Antonello perché sennò si addormenta anche lui. Aiuto un po'. Non mi sto addormentando ancora, sta tranquillo. Ciao Marco, ci sentiamo. Buono, con quelli a domani. Stammi bene. E allora Tino, che fai di bello? Ti sei comprato una parete nuova, ti sei comprato? Sì, vabbè, non è nuovo, ma lo sto valorizzando un pochino di più, di perché non l'ho mai avuto questo, però se ne parlava sempre male, per me non è male, anzi, per me è molto migliore. Poi la radio non so se è un similare, se è sempre della linea, non so se è la migliore l'altra o questa, però per me le caratteristiche di questa radio mi piacciono di più. Ah, già esce bene, è a voglia, è bello quel baracchino, non è giusto? Sì, ci mancherebbe. Dice dove? Quel citofuso ho comprato io, cazzo. L'iniziazione è bella, veramente bello. Non sento Marco Caldo Salvera, figurati tu, ma in trasmissione, oggi, eccolo mio. Quando ho aperto il microfono mi sono messo la mano in testa, che un altro parlante c'era posto della capsula microfonica. Allora avevo agganciato l'MP4, l'ho provato e funzionava bene. Poi Natalino mi ha dato ieri il microfono suo, gliel'ho fatto e funziona bene anche quello. E basta, adesso l'MP4 l'ho dato a Natalino, quello mio nuovo. E io domani mattina, anzi domani, lunedì mi compro lo spinotto e mi metto il microfono normale dell'FM500S in colorata, che quello uso originale, per carità. neanche di uso di quello. No, vabbè, non te la io stavo parlando di questo che sto utilizzando adesso, è differente dall'altro. No, la KR5005 mi piace, vabbè, un seminario del brutto, poi vabbè, si presta bene a fare modifiche, l'ho abbinato con un Q5 e un aiutino, giusto per lungo distanza, quello che va bene. No, di questo stiamo parlando qua. Allora, vediamo come funziona bene, è un po' l'estimazione, io pensavo quello col bip che sta entrando stasera. No, adesso sono con l'altra radio. Quello che usate una volta, quello vecchio, là. Sì, ma vuole che funziona bene quello. Vecchiotto è, ma sta ancora funzionando bene. Allora, io dico la radio lì, mi sono stufato la vetta. Ho avuto 140, cioè, gli 80, poi 140, che ho dato 140. Alla fine radio ho detto no, io non posso usare 50 radio, cosa me ne faccio? Me ne basta una e faccia tutto, infatti ho preso quella di Marco, che sto usando Giovanna adesso, e fa tutto e non c'ha bisogno di avere niente, capito? Ha fatto l'unica spesa, va fa il culo nuovo, di ultima generazione, e non voglio, cioè, che mi capiti magari che dopo un po' di tempo poi mi difetta, ce l'ho buttata nel cassonato la mandetta con l'apparecchio vecchi. Se voglio apparecchi vecchi ce ne sono la stanza lì. C'è rimasto ancora, mi sembra uno o due di planeta ce ne sono rimasti. Ma non avevo parlato io i 50 euro, gli ho detto no guarda, non le voglio altre apparecchi, ho detto anche le camettici, ho detto, tieni lo studio, ho detto guarda, fa una cosa. L'ho portato da Fabrizio, te lo fai sistemare, gli ho detto, e te lo usi a casa, ti metti una bella antenna, gli ho detto, e te lo piazzi, perché io i baracchini ne ho, basta, non la voglio prendere altre, l'unica cosa è, mi proseguo i soldi, in seguito mi compro qualcosa di utile, perché ormai il baracchino, il momento che c'è il boom, dopodiché mi è finito il coronavirus a settembre, se non è dicembre del prossimo anno, spariranno tutti, spariranno. Vabbè, che se ne frega, no, io ho cambiato il 44 al 45, non è che, ti ripeto, mi trovo meglio, a parte lo smitter che è differente, però da adesso ha un ottimo ricevitore, ha la possibilità di aumentare sia il PVR che il carrier in altre bande anche, insomma fa cose che con l'altro era solo scheggia da portante, questo è un pochino più impegnativo, devi studiarci un pochino sopra per quanto riguarda le regolazioni, però del resto è una stupidaggine, perché con il 44 per dire passavi la M in FM e ti dava gli stessi watt, per dire te li dava fissi, qua invece posso regolarli da 2 watt, da 10 watt, da 5 watt, quello che voglio io, capito? È una regolazione che però è fatta in FM, vabbè, su altre cose per me questo è più selettivo, anche perché ha doppi filtri e tante altre cose. Va bene, infatti ti chiedevo se la popolazione era differente o meno, la timbrica delle 60 c'è sempre, credo, l'amplificazione la si può dare, la si può togliere e così via. Oh, esce bene, sta uscendo benissimo, auguri. Li usate di quegli apparecchi là, e tu quello che stai usando adesso è differente dal 140, quello è logico, anche il 70 io il 70 non riuscivo a usarlo per dire in pieno inverno, perché quei tralicci qua, dalla 15.000, più tutte le scariche e cose del genere che sentivo, c'avevo sempre quel RM9, guarda, l'unico punto dove ho usato il 140 che sentivo benissimo, con quel RM0, se non vero, è vero, zitto, perché lì non ci passava un'anima, già lo sai, in auto, non ci passava un'anima. C'era questa tranquillità, sembrava un 440 sembrava, filtrato, addirittura sentivo cagliere, sentivo, vinacidro tranquillamente, e c'era una gran pepia stata lì, poi hanno preso le tetane di... Mi hanno buttato tutto in terra, sono salito sopra, hanno fatto il tetto, hanno buttato tutto in terra, a far culo a loro. E io me lo avevo, figurati tu, il cavo scendeva giù, l'avevo buttato giù e me lo portavo in garage, me lo portavo. Che era se ce l'avevo ancora. Quindi poi papà mi ha venduto tutto e in pratica. E poi qui è un casino, qui non si poteva, con la moto va con la coppa, con la moto va 5, la moto va 1, la moto va 2, non c'è niente da fare. I 140 lo puoi usare solo in campagna, mi, e funziona bene, come me, meno tre là, e basta, perché non ci passava con cane. Però qui, voi, invece con quello che ho adesso, con quello che ho comprato, con quello è perfetto, QRM 0, perché c'è DSP e quindi filtra le scariche elettriche, le tralicci, eccetera, eccetera, di tutto il caso dove vengono qui. Vabbè, io, a parte che ho provato, sto provando ancora questo amplificatore che volevo fare fuori, ma mi sa che non lo tengo, solo da provare, lo volevo più transolizzato. E con questa radio non distorce, cioè, capito? Quindi mi va più che bene. Però vendendolo prenderei un transolizzato. Allora, adesso vediamo. Giovanna, dai che sennò ti dormi. Sono ancora. Cosa hai detto? Sono ancora, te la chiamando, ho fatto così, non ho fatto niente. Guarda, quanto è, fai qualcosa perché Giovanna qua mi arriva a Santiago, sì. E tu sei oltre la soglia del 9:10, quindi o metti un T nel tuo capo, così non devi stare attento a farlo dopo tu con lei. Ah, no, adesso appena passa cosa qua, mi deve portare una canna a pesca, capito? Quindi mi metto quella nel terrazzino, vorrei che ti arriva a casa tua. La metto T nel terrazzino e vedrai che già esce forte da lì. Dalla parte del Conti. Allora, sì, mi sono dando questi, a me piacciono diciamo, questi lineari qua del Italy, quelli 600 watt, 500 watt, sono belli. Costano un botto, porca miseria, si accordano da soli, questi qua cambiano di mano da soli, tutto da solo fa. Non sono belli, cazzo, così. Quelli lineari fatti così sono di lusso, insomma. Se non fai altro che agganciare il piede e poi agganci la parete che vuoi, vai in quella banda che vuoi, in automatico cambia da solo, muglia. Cazzo, te lo giuro, devi dare potenza d'ingresso SSD FM massimo 40 watt, invece la M 25 watt, potenza di uscita massimo 500 watt, in SSD FM, potenza di passaggio massimo 100 watt, e insomma, già viaggia. No, vabbè, qui, e come hai detto tu, adesso c'è il boom, no, ma a me non interessa, a me sinceramente che ci sia il boom o che non ce n'è è una cosa che a me è sempre piaciuta, l'ho avuta da ragazzino, me la sto portando indietro già qualche anno, quindi dall'88-89 sta viaggiando con me questa radio, quindi a voglia. Ah beh, quello sì. Vabbè, poi adesso metti, Giovanna sta sistemando un po' la campagna, sta sistemando questo periodo, c'è bella pulita, si mette la porta e le finestre come si deve, si fa una cosa bella, recintato, scendo la bella antenna giù, scendo, la pensiamo giù, capito? Così Giovanna si diverte un po', attacca le diari, i tubi di stupi, non li suba nessuno, si prende un bel 500 watt, una bella mantova, a voi a divertirsi in chili. E allora, poi facciamo le gare Giovanna. Già l'ho guido, già. In campagna va bene me. L'ho avuta io, c'avevo la Super Vegibus, quella che poi ci avevo dato agli punti. L'avevamo pensata con Mario, tu metti di palo Mario Manser. Lo sai quando turbava con l'antenna, un demonio era. Esci bene la campagna a me, esci benissimo, c'è proprio il pallone. Al portatore sono preso in pieno, anche la veloce, aperto, eccetera, eccetera. Adesso appena sistemiamo tutto giù, mettiamo un bel palo, telescopico, ho fatto un pollice, ma per la bella sopra tu vedrai che lì ti diverti. Ma guarda, ieri ho fatto una prova proprio giusto a Porto Torres, staccato, arrivavo 9.10, una cosa del genere, ho attaccato 9.25, quindi ho visto che già va bene. E in Puglia, dove sei tu, lì sei a Prato, anche per la... vabbè che non c'è nessuno ormai, Badesi, roba del genere, tu sei tutto aperto, devi capire. Solo che non sappiamo dove nessuno, magari se gli viene in mente qualcuno di attaccare la palicchiatura lì a Castelsardo, cosa del genere, Lubagno, Vicenti, anche dalla Zinara, capito? A parte vabbè la Zinara ormai, lasciamo perdere, la Corsica più che altro. Senta qualche corsicano. Allora, vabbè, ma giusto perché mi piace a me averle le cose, perché al momento opportuno le puoi utilizzare, non è giusto così, per divertimento, per fare qualche collegamento, se c'è un po' di preparazione direi qualche cosa in più, capito? Già va bene. Sì, lo so, sì, vabbè, io con la Corsica ci ho modulato tanto tempo fa, anzi la verità venivano qui in Sardegna a comprarsi gli apparecchi, perché Dio, la verità c'è manco un negozio, manco per pezzi c'è nei negozi, figurati tu, però antenne già ne ho visto io, dei carrette, che ho visto un paio di letti installate lì, però se riprendono a modulare lì della Corsica il 27, ci parliamo tutti i giorni, ci parliamo a Vittorio, tu figurati, quel periodo lì, facevano modulare a Vittorio, Walter, e c'erano due ragazze che mi si erano modulato lì, si chiamava Martina, se non mi ricordo male, e poi qualcun altro, noi così che ci arriviamo tranquillamente, mi sa Sassari, a voglia, capito? Sì, allora, ma... vabbè, non c'è preparazione, non c'è bisogno di queste cose qua, ma era giusto per giocarti un po', e sai, la cosa sempre rimasta da quando eravamo ragazzini, e tipo, beh, un libro basso, e ti rimasta sempre la cosa di pompare, dargli un po' di birra. Quindi io lì sì, c'era un legale, c'era Valpe che stava con la Vittoria, Vittorio stava con la Valpe, poi c'era Angelo Delfino che attaccava lineare, poi c'ero io che attaccava 600 Valpe, quindi Claudio pompava lo stesso quando era arrivato il suo carbonazzo, e quindi eravamo tutti quanti con lineare, poi è successo il fatto che tutti con lineare, cosa del genere, alla fine sono girati le balle, perché se quel periodo lì c'era la TV com'era, hai capito, si trovava le televisioni, si sono tutti lamentati. Addirittura avevano messo anche l'articolo sul giornale, chiunque in un condominio ci aveva l'antenna del baracchino doveva fare la segnalazione immediatamente alle poste. Ma lo sai la gente che l'ha controllato, facevano il giro, prima passavano da me, poi andavano da Angelo Delfino, da Angelo Delfino andavano da Claudio andavano su Austria da Andrea Maricomio. Poi ogni mattina tu vedevi il furgone dell'esco posto sotto casa mia e senza manco fare la posta c'era quello che vendeva la frutta e verdura sotto casa mia che era il cibo lo stesso. Quindi tutti i cibi che arrivavano, il salone del giorno, tassista, tutti quei furgoni, Gesù non poggiano, eccetera, se li controllava tutti, uno per uno se li controllava. In mia c'è Gianverfa. Io lo vedevo ogni mattina, un giorno ho detto venga dentro, ho detto guardi, sono stufo di vederlo, ho detto di offro, ho detto il pranzo, ho detto se vuole pranzare qua, o se no ho detto si beve una birra o un caffè. No, non mi ha mai fatto, rimango qui, già aspetto, e allora sì, ho detto, stai fresco e qua a casa. Alle 2:30 ne sono salito. Mi tocco aspettare, vabbè. E così là, prima succedevano anche queste cose qua. Sì, l'esco, un posto come l'ho conosciuto io, sta tranquillo, non l'ha conosciuto nessuno. Figurati, tutte le mattine sotto casa mia, tutte le mattine. Poi cosa faceva? Per lei mi chiamava noi siamo dei baracchini, facciamo la docente, è stato un canale, prima che ero uscito, no? Faceva Alessio, come sto uscendo? Gli facevo, signor Pino, sto uscendo bene, non si preoccupa, gli ho detto, da furgone. Pigliava le malevazette e non rispondeva più, perché lui conosceva la voce ormai. Ma tu vedi la scusa, una scusante, che era il radio delle parate, il radio tecnico, quindi cacchio vuoi che dovevo fare lì, a rompere le scatole. Mi ha rotto le scatole finché non pratica, non mi sono girato le balle io, a un certo punto sono andato a lui e ho detto, se posso sapere cosa vuoi da me, dice no, dice io non ce l'ho con te, mi ha detto. E tutto questa storia qui è partita, dice, da quella signora che abita di fronte a te, che lavora alle poste, dice, di qui dove si fanno le concessioni, hai capito? Ah, così, gli ho detto. Allora, a giubilato ha giocato un cassetto da vita. E lui un giorno mi ha detto, dice, andando ci dobbiamo vedere, ci dobbiamo bere qualcosa, dice, scusami per come ti ho trattato. A quel giorno, non mi ha più tolto le balle. Poi da lì non l'ho più visto, quando ho cambiato casa, che sono passato la direzione da qui, non ho più visto nessuno. Io l'ho detto. Noi abbiamo prima, c'era più casino, c'erano più antenne, le antenne spuntavano come i funghi, mi ricordo che ci voleva tanto passarvi in una via e visuale, era bello perché insomma c'era un po' di casino, però nello stesso tempo se riuscivi a organizzarti, nel senso tra due, tre amici, quattro amici, cinque amici che stavano in un canale, poi gli altri si adeguavano perché mi ricordo che chi voleva entrare, se entrava con quel che entrava bene, se no stava a noi decidere se farlo parlare o meno, perché giustamente noi eravamo belli attrezzati spesso, era anche... Guarda che io... Allora, vicino a me c'avevo, modulava Roberta, poi modulava Angelo Delfino, Gianghero, poi c'era un altro Gianluca di Abruzzi, che era cieco, già te lo ricordi, che c'era un fratello cieco che abitava a San Giovanni, poi c'era uno di Matteotti, c'era il nome nativo, la verità, poi c'era la figlia della pasticceria che era in via Mendola, che si chiamava Maria Lollo in pratica, te la ricorderai senz'altro. E poi c'era il mio vicino di casa che lavorava in banca, Roberto si chiamava, però il nome attivo non me lo ricordo più, lavorava in banca. E poi Camillo Passo lo lavorava dall'entrata Maricumio quando andava lì a lavorare. Tutti i giorni chiamava la moglie Bettina, e siccome io la ammazzavo a Sclapper, mi chiamava Antone, abbassa perché non sento mia moglie che mi sta chiamando. Ricordami invece, non ti ricordi dove lavorava Marta tanti anni fa, no? Attaccata lì c'era uno, mi sembra che si chiamava Dino, può essere. Sì, mi ricordo quello che era attivo, Fernando Antonio, ma non ricordo. Lui parlava molto, cioè molto, parlava solo con Vito perché era in campagna, il marito, si chiamava Porcetto, ma gli essere relativi che... Aspetta, forse era zona Margolizzone, dove c'era l'uomo Salvetti, mi sembra che era, nel parto di Filofieri. No, allora lei modulava, te lo dico per certo perché modulava in via Martinotti, prima della traversa di Assorso. No, via Martinotti c'era Natalino, c'era, quindi, che modulava dalla pasticceria, poi in via Assorso c'era cosa? C'era...